E ora possiamo di informati tecnologici. È una questione di ambienti, in sé la classe che deve cambiare, che deve trasformare, che deve mutare la propria organizzazione. È una questione di destrutturazione del lavoro scolastico, cioè di rottura delle pratiche consolidate della didattica. È una questione di rendere tutto formale, l'educazione formale, in realtà per dei diritti, se si vedono, si motivano, e se si motivano sono contentissimi e apprendono con facilità. Sono forse domande che con gli amici, in un gruppo di lavoro, con gli insegnanti, a capo ci deve vedere che vedrete lo scomodito. Parteciperà al laboratorio, annualmente danno vita a questo convegno scambio delle esperienze che si chiama Comianus Internaus. Quindi abbiamo invitato per parlare della classe 2.0. Io sostanzialmente mi sentivo di porre esattamente queste domande, che sono le domande che mi pongo nel momento in cui penso alla didattica, scusate, alla linea di prospettiva didattica. Perdonate la scarsa organizzazione dell'animazione, ma io lavoro con le notte sul momento in cui leggo con PowerPoint anche le cose. Allora, per rispondere alle domande vi dicevo, posso fare, se mi passate il termine, lezioni 1.0 con la BIM? Cioè, posso cambiare tutto perché non cambia niente? Sì, posso. E ragiono su 5 delle moltissime caratteristiche che la lezione con la lingua potrebbe mantenere rispetto alla lezione senza lingua. Può permanere la totalità con la lingua? Sì. E l'impostazione qual è? Della pratica maestra del gruppo di luce. Tranquillamente. L'autore di questa conquista è la copia. L'istituzione di un sistema di lavoro che è basato sulla definizione dei punti. Lo operano? No, perché non potrebbe continuare a ragionare su un sistema di lavoro basato sull'esecuzione dei punti. La socialità della prestazione individuale verso la collaborazione riesco a portare, ma posso continuare a ragionare sulla prestazione individuale che viene dalla lingua che faccio fare la cosa. E l'orientamento a progetti che si tira dietro la grazia conosciuta da neonica dell'insegnante che nel momento in cui si valorizza per il giochino libera tutte le sue potenzialità e che comincia a curare i suoi oggetti in mano che devono essere bellissimi e così alla fine dimostriamo ai genitori. Cioè, mi sembra che anche l'orientamento agli oggetti, come nella scuola della multimedialità della linea domanda, si possa ridurre. Dove basta valutare a fare la presentazione multimediale degli oggetti, alla fine di un'anno abbiamo fatto un oggetto, in pesante che avevo fatto la prima, avevamo messo insieme noi in 4 noti prima, non dell'esame, ma della presentazione, che avevano presentato. Da lì finivano nella didattica del dirigente, cioè un cassetto nella direzione pratica. Allora, quello che voglio dire è che può non cambiare nulla, anche cambiando tutto. Allora, questa decisione di provare non risolvere il problema, ma a suggerire piste di lavoro perché cambiando tutto cambi qualcosa. Cioè per dare significato ad un'operazione come quella di introduzione del clima nella classe. I protagonisti, come vedete, sono la vecchia lavagna, gesso e lavagna tutto, che va progressivamente in pensione, la lima, e qui è una libera concorrenza, ma avete perdonato, mi guardo tra l'altro nella realtà comoda di questa e i sistemi quali. Perché secondo me l'altro protagonista che non ci siamo mai abbastanza della trasformazione della classe in classe digitale è quello di proprio da basso costo che ad alta con le digitali, attraverso il sistema wireless diventa l'elemento fondamentale del sistema di lavoro che fa terreno nella vita. Io allora mi sono chiesto, fare attenzione che cosa potrebbe voler dire. Io vedo due premesse che sono un po' la radice concettuale dell'operazione, e due strategie. Le due premesse rispondono ad altrettanti freni, che secondo me sono il freno drammatico e il freno perceptivo. Anche qui nella strada della didattica ci sono stati momenti in cui i due freni sono stati interpretati con vero tecnologia. Mi sembra che però sia un po' di tempo che non ci si frequenta più con efficacia, da lì in particolare consente di tornare a frequentare. Sono due dei freni, il freno drammatico e il freno perceptivo. Le due strategie prendono corpo nelle due idee della classe laboratorio e della comunità del rapimento. Quindi qui niente di nuovo dal punto di vista della ricerca didattica, ma si tratta di andare a recuperare idee umanistiche che appartengono al passato recente e meno recente in questa storia e rilanciandole e declinandole nella prospettiva della lingua. Sono messo per immaginare il percorso velocemente definito. Elementi di una drammaturgia della vita. Che cosa c'è che mi spinge in questa direzione? C'è il lessico teatrale. C'è uno sfondo che si popola di scenari. C'è un testo che assomiglia moltissimo a una sceneggiatura, anzi, perché la vita assomiglia moltissimo ad una scrittura di scena, come quella che si faceva nel cosiddetto nuovo teatro negli anni 60 e i primi anni 80, dove la figura del drammaturgo che scrive e poi gli altri mettono in scena va a ripetersi a favore di una scrittura che nasceva sulla scena, o se non direttamente sulla scena, immediatamente nell'elettropalco prima di andare in scena. Con tutto quello che viene messo c'è, quindi il primo piano, ad esempio, dei treni. La performance diventa molto più importante del treni che porta alla performance. E poi ci sono i protagonisti, l'autore, gli attori, che sono autori, perché non è che ci sia proprio una grandissima differenza tra chi è autore e chi è attore. E ancora il dato lessico si può ragionare sulla lezione con la lingua, qui si dovrebbe andare a vedere un momento milito limitare nella traccia del lavoro, si potrebbe ragionare sulla lezione con la lingua, sottolineandone la dimensione narrativa da una parte, si sta parlando per esempio di vista del storytelling, per un tipo da terrocci in un libro di Maria Santini, un programma del tutto su Vista, la scuola di Terra e di Milano, questo tipo di due ore in potenza di università di Padova, è una pratica molto diffusa, sicuramente interessante, non da lei retta. A misura di lì, è la risalto di Padova, viene in primo piano, perché gli scenari non sono dei contatti, sono delle sceneggiature, anche se la visita di Padova, sono la visita di Padova lì, si può. E di conseguenza la dimensione performativa. La logica della performance facendo tutta l'abbiamo visto anche in questa dimostrazione performativa come oggetto. Cioè, tra la sua performance c'è una molto forte che spinge a rivela luogo di snodo di cose di pratiche performative. È un primo scenario. L'altro scenario, cioè quello del consente di lavorare in economia della vita. Queste cose stanno nell'idea progettuale del primo di prima dicembre, di cui gli amici di Ferrari sono compagni di strada. In realtà stato definito il modello della modernità scuola del fatto che tra l'altro la pianeta a pensare da una parte a continuità di quel progetto lì così super tecnologico con l'esperienza del bambino in tal modo in tutta la terra. E dall'altra parte c'è tutto il discorso relativo alla visualizzazione in altra manipolazione del dare fatto un certo che dice tutto il discorso relativo all'espressione della mente, la scena della mente che si proietta fuori sullo schermo e consente di manipolare concetti come fossero oggetti che un padre e che gli attribui in maniera. La multimedialità che a mio parere è sollecitata proprio nella prospettiva della quantificazione dei punti di accesso alla conoscenza. Gardner, teoreticamente, insegna Gardner in primo luogo. Qui discorso interessante, quindi è conseguente dell'analisi dell'intelligenza di tutte le idee, tra l'altro la possibilità che gli intermediari quantificati i punti di accesso alla conoscenza. Quindi di intercettare le mix differenti di abilità e di cognitivi del bambino. Vado a spiegare velocemente le altre due dimensioni e chiudo. Dicevamo allora, tra l'analogia e l'economia della vita, le due immagini, la classe del laboratorio della comunità del rapimento. Il modello della classe del laboratorio dice una didattica, quella con la lima, centrata sul padre. Quali sono i metodi di questa didattica centrata sul padre? Sono i migliori di cui sono la struttura collaborativa e quali sono le pratiche di questa didattica centrata sul padre? Il paesere e non soltanto il paesere e il video. Mi pare, cioè, il podcast come dicevo con Benedetti, mi pare che la luce è un bel spunto, un bel suggerimento per tornare alla giornata di classe lavoratoria. Potrebbe non essere una classe lavoratoria, cioè potrei utilizzare in prospettiva uno dell'osservatorio, se voglio fare le cose bene, la luce della prospettiva della classe lavoratoria. E la dimensione evocato l'immagine della comunità del rendimento è l'idea di una classe centrata sul collaborare e tutti i discorsi di Jonassen come modello che sta a monte della didattica centrata sul collaborare, i metodi dalla didattica metacognitiva al problem solving, le pratiche, la lezione dialogata, la costruzione e l'utilizzo della conoscenza. Capite che queste quattro zone assunte la tecnologia, l'economia, classe laboratorio e comunità di arricchimento sono nel più o meno che un primo syllabus di contenuti da approfondire. Potrebbero essere la mappa di un corso metodologico per l'insegnante che vuole lavorare in maniera efficace con la lingua. Sulla base di questa riconcettualizzazione, allora diventa possibile vedere via, spostarsi dalla logica di un punto vero, individuando tutti gli usi estremamente ricchi e interessanti della lingua. Da lì un sistema di rappresentazione, da lì un spazio di struttura collaborativa, la LIN come facilitatore sia nel senso dell'ausilio sia nel senso del supporto, che ha già fatto qualche piccolo intervento con delle reti di scuole che lavorano sul rapporto tra LIN e didattica speciale, a supporto della didattica della LIN con la vita diversa. La LIN come amplificatore degli apprendimenti, il software dedicato a questa direzione, come spazio di socialità, come mediatore culturale, sarebbe interessantissimo avere come spazio per la didattica interculturale basato sull'usazione di content, bambini diversi che scrivono cose diverse, che compongono arrivano diversi punti dello stesso spazio, accompagnati da una attività di facilitazione riflessiva dell'insegnamento. E alla fine, la mia, come dire, di comunicazione, e come è già stato detto, quindi la videoconferenza e le nuove possibilità che la lingua si concepita apre a questo punto di io non mi proponevo di risolvere i problemi, mi proponevo di concettualizzare una modalità problematica che va assolutamente superata per mettere in piedi delle conclusioni interessanti su questo punto di vista e tracciare una roadmap possibile che il sistema di istruzione potrebbe provare a seguire perché l'introduzione del libro in scuola non sia soltanto un'occasione di restituzione della nostra, della capacità di un paese di essere al passo dei tempi, ma si traduca effettivamente in uno strumento efficace per loro.